que quan la vida t'engrifa com ma gata, nené, que t'hagi fat que no me puc veder. I t'hagi amat tant, et t'amo, et tu lo sai. Io te voglio ben assai, e tu, tu non pensa a me. Io te voglio ben assai, e tu non pensa a me. La notte tutto dorme e io che vuoi dormire, pensando a nena mia, ma senta asciuli, mi quarto d'ora sonna, a una, due, a tre, io ti voglio ben assai, e tu non pensa a me. Io te voglio ben assai, e tu non pensa a me. Ricordate lo giorno che stiva a me vicino, e ti scorrea nanzino di lacrima così. Dici sta a me un chiagnere che tu lo mio sarai. Io te voglio ben assai, e tu pensa a me. Io te voglio ben assai, e tu non pensa a me. Io te voglio ben assai, e tu non pensa a me.